La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, cineascoltatori di Radio 24, Franco D'Assisti in studio per la consueta ora di cinema settimanale sulle nostre frequenze. Settimana piena con 5 nuovi film in sala, fra vampiri adolescenti e stilisti da Oscar, fratelli problematici e i nostri anni di piombo. Titoli di testa. Francis Ford Coppola alla Rosa Purpurea racconta i suoi segreti di famiglia. Si chiude con successo il Torino Film Festival, ottimo esordio per il nuovo direttore Gianni Amelio. Renato De Maria presenta La prima linea, il terrorismo continua a far riflettere il cinema italiano. Con la luna nuova ritornano i vampiri di Twilight. Nelle sale arriva New Moon, ultima puntata della popolarissima saga. E prima di parlare dei film e di ascoltare un parterre de roi di registi che va appunto, come avete sentito, da Francis Ford Coppola a Renato De Maria, vogliamo però parlare del Torino Film Festival, che si è chiuso proprio in queste ore. Ed è con soddisfazione che dobbiamo annunciare, dopo 10 giorni di ottimo e giovane cinema internazionale, la vittoria di un film italiano. Si tratta de La bocca del lupo di Pietro Marcello, che ha convinto la giuria presieduta da Sandro Petraglia, un film che fra finzione e documentario racconta la storia d'amore fra un uomo e un trans sullo sfondo dei Carrugi di Genova. Ed è collegato con noi in diretta il regista Pietro Marcello, che saluto. Ciao Pietro e complimenti. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, te l'aspettavi? Ma guarda, diciamo l'impegno era fare un bel film per me e per tutta la troupe, poi è arrivato questo premio, un attimo un po' di confusione. Ti sento abbastanza sconcertato da questa... No, contentissimo, è una cosa bellissima, straordinaria, ma a me mi sembrava una cosa abbastanza, vedevo tutti, c'ero russo, c'ero rumeno, un sacco di gente brava, comunque il livello di film era molto alto. Senti, sono andato a vedere altri film veramente belli. Ecco, devo dire che in questi giorni a Torino però il titolo La bocca del lupo faceva abbastanza parlare di sé, insomma nel passaparola ha funzionato molto. Tu hai scelto una formula che è sospesa fra finzione e documentario. Ma guarda, la storia è piaciuta perché è una storia vera principalmente, poi per il resto è un po' strano perché mi vengo oggi dei giornalisti chiedevano ma i tuoi attori, dove sono gli attori? Cioè, è una storia vera quella, sono delle persone che vivono, che hanno passato anche dei guai nella vita, è un po' strano perché la gente si appassiona, un po' è piaciuto anche il pubblico, no? È piaciuto alla critica però è piaciuto anche al pubblico, allora quando unisci le due cose è sempre bello. È una piccola storia, un melodramma. Poi all'interno del film c'è anche Genova, che è la grande storia. La grande storia è rappresentata dagli archivi, dai materiali dei Pertodi. La genovesità è all'interno di quei materiali che sono stati realizzati da genovesi nel Novecento. Ecco, senti Pietro, una cosa, tu ti dobbiamo anche un po' scoprire come regista ovviamente, quali sono un po' il tuo cinema di riferimento, i tuoi registi principali sui quali diciamo ti sei un po' formato? Ma guarda, io mi sono sempre il documentario, cioè, ho fatto sempre il documentario perché è il modo più facile anche per scoprire la realtà, è il documentario che ti fa le ossa. Quello sicuramente è stata una cosa importantissima per me, la formazione, e tuttora continuo ad utilizzare gli stessi strumenti. Allora, Pietro Marcello, qui alla Rosa Purpurea, in bocca al lupo viene da dire, parafrasando il titolo del tuo film, e speriamo ovviamente, a questo punto ne siamo anche abbastanza convinti, di vederlo circolare nei cinema italiani, il premio del film più importante, più bello, insomma, di questo 27... È la prima volta che vince un italiano. Ecco, 27 anni al Festival di Torino, c'è stata anche questa prima volta. Grazie a Pietro Marcello e buon proseguimento di carriera, potremmo dire. Noi vogliamo segnalare anche i premi per gli attori. Catalina Saavedra per il film cileno La Nana e una coppia di lusso come Robert Duvall e Bill Murray per l'americano Get Low. Voglio anche segnalarvi un premio che ci sta particolarmente a cuore, che è il premio Cult o Cult, a seconda di quello che volete. Vi ricordiamo che questa sera al Torino Film Festival, durante la cerimonia di premiazione ufficiale, sarà annunciato anche il vincitore del premio. Noi lo conosciamo già ovviamente e ve lo vogliamo dire così in anteprima. Oil City Confidential, firmato firmato dal regista Julian Temple, vince il premio Cult Cinema della Realtà come miglior documentario internazionale alla 27esima edizione del Torino Film Festival. Ci teniamo a ricordarlo, a parte per i 20.000 euro che vanno a questo film, ma anche perché Radio 24 ha sempre avuto grande attenzione per il documentario in questi anni. Vi ricordo che domenica sera alle 22, nello spazio normalmente dedicato a Radio Doc, andrà in onda uno speciale sulla serata evento che venerdì al Torino Film Festival ha visto la proiezione fuori concorso in anteprima in Italia del film documentario Rip RMX Manifesto del regista Brett Gaylor, celebre videoblogger canadese. A questo punto però, per chiudere la parentesi sul Torino Film Festival, ascoltiamo un bilancio conclusivo del neo direttore, ma anche grande regista, Gianni Amelio. Non sono Moretti, ma gli somiglio in alcuni aspetti, perché abbiamo in qualche modo lo stesso rigore e sicuramente la stessa passione per il cinema nel suo complesso. La forza di questo festival è anche data da una continuità di gruppo, da un lavoro di gruppo tra persone che si conoscono molto bene e che possono in qualche modo dare una linea a un festival che ha un'identità fortissima, una tradizione altrettanto forte e che deve, a mio parere, allargare il proprio orizzonte. La soddisfazione più grande mia è il fatto che abbiamo piazzato una media di 2 film al giorno. Piazzato che significa? Che sono stati acquistati da distributori italiani. Questo è davvero forse il compito di un festival come questo, che non si basa sul già conosciuto, non porta qui i lustrini, le paillette, i tappeti rossi, ma porta qui i giovani che hanno bisogno di farsi conoscere e fanno film che sono ricchi di intelligenza anche se sono poveri di mezzi. Nella seconda metà degli anni 70 sono stato tra i fondatori del gruppo armato Prima Linea. Noi di Prima Linea abbiamo fatto cose da pazzi. Eravamo convinti di aver ragione. Avevamo scambiato il tramonto per l'alba. La clip che avete sentito è tratta da La Prima Linea di Renato De Maria, film con il quale vogliamo aprire la rassegna delle pellicole in uscita in questo fine settimana. Un film che racconta uno dei passaggi più drammatici della storia italiana recente, quello del terrorismo rosso, nel suo momento forse più efferato e senza senso, quello dell'inizio degli anni Ottanta, dove la sconfitta del folle progetto era in vista e proprio per questo le azioni militari ancora più inspiegabili. Protagonisti Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno, ma è in collegamento qui alla Rosa Purpurea il regista Renato De Maria, che saluto. Ciao Renato. Ciao, buonasera a tutti. Grazie di essere qui con noi. Renato, si è parlato molto di questo film con critiche spesso preconcette, inerenti l'opportunità stessa di fare film come questo. Quando un paese si chiede se sia opportuno fare un film, scrivere un libro, manifestare un pensiero, vuol dire che quel paese è malato o ha degli scheletri nell'armadio. Tu cosa ne pensi? Penso che sia vera tutte e due le cose. Da un lato, più che malato, questo nervo del terrorismo degli anni 70 è un discorso che non si è mai risolto, non è mai stato affrontato veramente dalla società civile. Ecco, quindi ho sicuramente toccato un nervo scoperto. E dall'altro lato credo che raccontare queste storie oggi invece faccia solo che bene al dibattito, cioè ad aprire un dibattito, ad aprire una sorta di sguardo verso quel passato, di sguardo intelligente e soprattutto credo che sia un argomento che vada affrontato. Ecco, credo che le critiche sul fatto che non vada fatto un film sul terrorismo siano state assurde, mi hanno toccato veramente nel profondo, perché noi ci aspettavamo, io, Andrea Occhipinti, Petraglia, lo sceneggiatore, ci aspettavamo, diciamo così, delle polemiche, perché andavamo a toccare un tema delicato, sicuramente delicato, perché i parenti delle vittime sono ancora in vita e quel dolore non lo hanno mai giustamente superato, perché è un dolore inaccettabile, la perdita di un padre, di una madre, di una moglie, di un marito, di un fratello, insomma sono cose gravissime. Però credo che noi abbiamo cercato un punto di vista terzo, che non è né quello dei terroristi né quello dei dell'associazione delle vittime, cioè abbiamo cercato di raccontare la storia legandoci ai fatti. Ecco, credo che il cinema americano su una vicenda come quella degli anni 70 ci avrebbe fondato una cinematografia intera. Ecco. Del resto lo ha fatto con i loro scheletri nell'armadio. Esatto. Renato, volevo chiederti una cosa invece su Riccardo Scamarcio. Mi sembra di poter dire che con le sue ultime grandi prove attoriali abbia un po' finito di pagare il conto della sua bellezza, no? Che lo aveva un po' fagocitato nella prima parte della sua carriera. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo. Riccardo è un attore in assoluta crescita che sta dimostrando di essere un attore con una gran bella faccia cinematografica, che però non è una colpa. In Dillinger, l'ultimo film che è fuori Michael Mann, c'è Johnny Depp, non è che nessuno si è chiesto come mai Johnny Depp, se non era troppo bello Johnny Depp. Ecco, invece in Italia ci si è chiesti perché far interpretare un ruolo come questo a Scamarcio. Io rispondo perché è un bravo attore. E poi perché ha una gran faccia e le facce fanno la storia del cinema. Per introdurre un'altra domanda, Renato, vorrei far sentire ai nostri ascoltatori un'altra clip del film. Sentiamo. Appena arrivati a Sottomarina, Rosario e Diego si occuperanno di far sparire le auto. Lucio e Massimo porteranno le ragazze a Vicenza. Con Federica resterà Giulia. E noi due? Ho affittato una casa a Venezia. A Venezia? Sono tanti anni che non ci vado. Grazie. Ecco, avete sentito Giovanna Mezzogiorno e Riccardo Scamarcio sospesi fra la storia e le storie, quella con la S minuscola per gli altri ma maiuscola dentro di noi. Ecco, Renato, non è facile far convivere queste due anime in un film, quella privata e quella storico-pubblica. Come hai lavorato a questo aspetto? Ma appunto era un po' l'intenzione del film, cioè chiedersi come mai dei ragazzi che allora avevano tra i 20 e i 25 anni potessero aver fatto una scelta così forte della lotta armata e come mai sono potuti arrivare attraverso questa scelta ad uccidere e a sacrificare, non solo ad uccidere delle persone, ma anche a sacrificare la loro giovinezza nel nome di un ideale abbastanza lontano come quello di una rivoluzione. Quindi io mi sono legato a due persone, a due esseri umani, che non guardandoli come dei mostri, ma guardando come sono diventati feroci assassini e come questa logica della lotta armata, una volta separati dalla realtà attraverso la clandestinità, cominciano a vedere le persone come figure, un giudice come quello, come Alessandrini, non come un giudice, non lo vedono più come un padre, ma lo vedono come un giudice e vedono loro non come degli esseri umani che potrebbero vivere delle storie d'amore, potrebbero crescere diciamo così in una vita diciamo così normale, fatta di sentimenti e di affetti, ma come militanti o soldati legati solamente a una logica di guerra. Perfetto, Renato De Maria alla Rosa Purpurea per parlarci della prima linea. Grazie, a risentirci. Grazie. Renato, grazie a voi, andate al cinema, mi raccomando. E questo era il monito, anzi l'avviso o l'invito di Renato De Maria. Noi siamo alla prima parentesi, alla prima finestra sul DVD Game, il nostro gioco che ogni settimana vi fa vincere DVD. Andiamo ad ascoltare la prima traccia misteriosa. Prendere il numero dei veicoli venduti, A, moltiplicarlo per il probabile indice di fallimento, B, poi moltiplicare per l'indennizzo medio concordato, C. A per B per C uguale a X. La Rosa Purpurea @radio24.it se avete già indovinato di che film si tratta, in quel caso siete davvero dei mostri cinefili, fra poco un'altra possibilità. La musica argentina vagamente tanghera di Osvaldo Golijov ci introduce al prossimo film, il vero e proprio evento della settimana. Parliamo di Tetro, segreti di famiglia, il ritorno di Francis Ford Coppola, due anni dopo un'altra giovinezza. Il regista del Padrino di Apocalypse Now sembra avere ritrovato la voglia di dire cose attraverso il suo cinema, che vola alto nelle ambizioni e nella forma. Coppola protagonista anche della settimana italiana, visto il suo passaggio al Torino Film Festival, fra interviste, fra poco vi faremo ascoltare quella rilasciata La Rosa Purpurea, e gite a base enologica, la sua grande passione, visto che Coppola è a sua volta produttore di vino. Tetro, segreti di famiglia, è nei cinema italiani col suo sontuoso bianco e nero a raccontare la storia di una famiglia dilaniata e di due fratelli che si ritrovano fra fatica e dolore. Sì, chi è? Benjamin. Benjamin, il fratello di Angelo. Vi ho mandato un telegramma. Sì, certo. Ciao. Mi chiamo Miranda e sono tua cognata. Quasi cognata. Non avevo mai avuto una cognata. Che privilegio. Sei decisamente più giovane di quello che credevo. Ero ancora un bambino quando si è preso un periodo sabbatico per scrivere. E da allora non l'ho più visto. Benny e Angelo Tetrocini stanno per rincontrarsi a Buenos Aires, quartiere La Boca. Da anni i due non si vedono. A Benny è rimasta solo una lettera del fratello maggiore. Un giorno verrò a prenderti, promessa non mantenuta. Angelo si è ritirato nella sua vita d'artista, scrittore e tecnico delle luci per un teatro bar di Buenos Aires. Vive la sua vita con la devota Miranda, che ne assorbe in parte le asperità e le vulnerabilità caratteriali, quegli aspetti che hanno fatto rompere Angelo con il suo passato misterioso e lo hanno trasformato in tetro. Dopo un approccio non certo affettuoso, i due iniziano il chiarimento in un bar. Come va? Silvana. Tutto bene? Lui è un mio amico, Benjamin. Benissimo, è anche amico mio. Come va? Arrivo subito. Perché le hai detto che io sono un tuo amico e non tuo fratello? Non sei amico mio? Ti sono amico, ma siamo fratelli. Le persone qua giù sanno pochissime cose di me. Miranda non ha nemmeno idea di chi sia nostro padre. Voglio che tutto rimanga com'è. Qual è il segreto di Tetro? Perché vuole stare vicino al fratello il meno possibile? Sarà una valigia piena di lettere di Tetro scritte al contrario, quasi un codice da Vinci, trovata sopra un armadio a mettere Benny sulla strada giusta e drammatica. Film possente, raffinato, pieno di dolore e di mistero che si attorcigliano l'un l'altro a ciò che più di caro abbiamo, gli affetti, un padre, una donna, un fratello. Francis Ford Coppola non è tornato al cinema per adeguarsi al modello hollywoodiano del terzo millennio. Coppola è un gigante del cinema che a 70 anni soppesa l'opportunità di ogni suo pensiero destinato a diventare film e si mette dietro la macchina da presa solo se necessario. In Tetro c'è da chiudere un conto sul tema della famiglia, dei padri che affossano le ambizioni dei figli anziché valorizzare. E questo tema è portato alle estreme conseguenze, un problema che curiosamente Coppola mette anche alla base degli stenti del cinema italiano di oggi, partendo da Gomorra. Gomorra è molto ben recitato, è un film duro. E per me che conosco Napoli non è stato facile vederlo. Il Divo non l'ho visto, però due film sono veramente poca cosa rispetto al periodo d'oro del cinema italiano. Rispetto a Rosi, Antonioni, Rossellini, Dino Risi. Insomma, si potrebbero citare almeno 50 grandi registi e 30 anni dopo ci troviamo con due film. Non è sufficiente. Io credo che il problema sia il maschio italiano, che assomiglia al padre del mio film. È una sensazione che ho in generale in Italia e mi si spezza il cuore, perché non vedo futuro per i giovani. In tutto il mondo vedo giovani italiani in cerca di opportunità che qui non hanno. E mi chiedo, dove sono i genitori che dovrebbero incoraggiare questi giovani, consentendo loro di crescere, di prosperare e di poter avere la loro parte? Il cast, come spesso accade nei film di Coppola, affianca attori di grande talento ed esperienza, in questo caso Vincent Gallo nei panni di Tetro e Maribel Verdú in quelli di Miranda, a giovani emergenti come Alden Ehrenreich, che dà il volto a Benny. E nello spiegarci il suo lavoro con gli attori, Coppola ci regala anche un simpatico aneddoto. Tutti i film in realtà nascono dalla collaborazione del cast, dei tecnici e degli attori. E se un artista è disponibile, tra le righe emerge sempre la sua forza vitale. La sua vitalità che si aggiunge a quelle che sono le intenzioni del film. Tra un ciak e l'altro c'è sempre l'occasione di scambiare due battute, osservare gli attori. In quei momenti sono più reali, più veri. E bisogna essere pronti a cogliere qualunque elemento di realtà. Quando gli attori lavorano per entrare nel personaggio, non sempre ci riescono subito. Ricordo che Gene Hackman mi ha raccontato che sul set de Il braccio violento della legge non riusciva a calarsi nel personaggio, finché un giorno, mentre era in un bar a bere un caffè, nel gesto di gettare via un pezzo di brioche, William Friedkin, il regista, che era alle sue spalle, gli disse: «Ecco, questo è lui. Qualche volta serve una spinta, quindi è importante che il regista osservi gli attori e il loro comportamento». Stiamo parlando di Tetro, il nuovo film di Francis Ford Coppola nelle sale cinematografiche italiane. Lo stiamo facendo come meglio non si potrebbe, nel senso che stiamo ascoltando la voce di Francis Ford Coppola. C'è ancora una cosa che abbiamo voluto estrarre dalla nostra intervista realizzata a Torino. Coppola ha spesso parlato dell'influenza che il cinema italiano dei grandi maestri degli anni 60 e 70 ha avuto su di lui. Ma cos'è invece il cinema per Francis Ford Coppola? Sentiamo. There are many films that I found very profoundly beautiful and ci sono tantissimi bei film. A volte mi stupisce come nei primi 20-30 anni di cinema si siano realizzati così tanti bei film. E la risposta che mi do è che probabilmente il cinema è la forma artistica che l'umanità stava aspettando, perché è la più consona ad esprimere l'esperienza propria dell'essere umano. Qualche volta mi chiedo che film avrebbe fatto Goethe se a quell'epoca ci fosse stato il cinema. E il cinema sicuramente cambierà in futuro. Io mi auguro che cambi anche la logica dell'industria cinematografica, che è troppo legata al profitto e di fatto ostacola l'espressività dell'arte cinematografica. Ma sono sicuro che alla fine il cinema vincerà. Parola di Francis Ford Coppola alla Rosa Purpurea, speriamo davvero che abbia ragione, ma ne siamo convinti anche noi. Adesso noi cambiamo decisamente argomento, come capita sempre qui alla Rosa Purpurea, perché i film sono tanti e sono assai diversi. Hanno azzannato i teenager, ma anche molte mamme in tutto il mondo. Sono belli, agiati, innamorati, sono i vampiri di Twilight, che da qualche giorno si aggirano con successo anche nei cinema italiani, con il secondo capitolo della loro saga, New Moon. Questo è da parte di Emmet. È un autoradio, te l'ho già installata. Finalmente quel tuo rottame avrà un autoradio decente. Ehi, non insultare il mio pick-up. Desmond Carlyle. Una sciocchezza per rallegrare i tuoi giorni. Sei un po' troppo pallida ultimamente. Oh, mi sono tagliata. Ultimo anno di liceo a Forks, uggiosa cittadina nord degli Stati Uniti. Bella compie 18 anni ed entra in crisi. Lei invecchia e il suo amato Edward rimarrà per sempre il bel tenebroso 17enne che è, visto che si tratta di un vampiro. Il giorno delle decisioni irrevocabili si avvicina. Bella deve decidere restare umana e perdere il suo amore o farsi vampirizzare e non invecchiare più, peraltro al suo fianco. Per non nuocerle, Edward decide di lasciarla e di partire, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ma non è così. Il vuoto di Edward viene riempito da Jacob, l'amico della vicina riserva indiana. Bella passa con lui le giornate più difficili, finendo per provare per lui qualcosa di più. Ma Bella ha un talento per le persone speciali. Jacob, infatti, è un licantropo. Che avete fatto? Cosa mi hai fatto? Calma! Lui non lo voleva! Perché? Che abbiamo fatto? Lui che ha fatto? Che ti ha detto? Volete calmarvi? Niente! Tutti... Non mi dice niente perché è terrorizzato da voi! Ormai è tardi? Bella, vattene! Paul, sta calmo! Quando Bella verrà a sapere che il suo amore vero, Edward appunto, è andato in Italia a mettere fine alla sua tormentata esistenza per mano dei volturi di Volterra, vampiri ammazza vampiri, fa i bagagli e parte per salvarlo, coi minuti contati. Che cosa dobbiamo farne di te? Sai già quello che dobbiamo fare con lei, Yaro. La ragazza sa troppo. È un pericoloso fardello. This possibility. This possibility. Rispetto ai tanti film che hanno come target gli adolescenti, la saga di Twilight ha una marcia in più. Ambientazioni plumbe, fotografia fredda e iperrealista, musiche suggestive e funzionali. Ma è la storia, semplice e tormentata, il cuore del successo di questa saga. L'amore impossibile strega ancora i ragazzi del terzo millennio. Forse avevamo archiviato il romanticismo con troppa fretta, ma questi novelli Giulietta e Romeo lo hanno rilanciato. La regia di Chris Weitz aggiunge qualche venatura horror, ma nulla di insopportabile. In fondo Twilight è un film per madri e figlie al cinema, magari da sole. Sentiamo Robert Pattinson raccontare come vive questo momento di successo planetario. È così strano vivere un'esperienza del genere, che improvvisamente esplode come una supernova. I film sono stati girati tutti molto velocemente, anche il gruppo dei fan è esploso in fretta. Sembra quasi irreale e io mi sento in qualche modo dissociato dal mio carattere naturale. Dal canto suo, Kristen Stewart ricorda l'importanza dell'affiatamento con il partner sul set. Ero davvero intimorita dal materiale di questo nuovo film. Ed è passato tanto di quel tempo tra una produzione e l'altra che ho perfino fatto un altro film, dove il mio personaggio non poteva essere più diverso da Bella in Twilight. Ma fortunatamente abbiamo una relazione molto stretta e questo è davvero importante quando lavori con un attore. Io non sono brava a mentire. Parlavamo di successo planetario. In America New Moon ha incassato 72 milioni di dollari nel primo giorno, strappando il record di miglior esordio al Cavaliere Oscuro. In Italia il film ha raccolto 2 milioni solo nella giornata di mercoledì. Chiara Pizzimenti ha raccolto i commenti di alcuni giovanissimi spettatori. È bellissimo, però è finito non tanto bene. Volevate vederlo subito ed è stato bello? Sì, è stato molto bello. La fine è un po'... cioè, non ce l'aspettavamo per niente così, però sì, è stato molto bello. Cosa vi piace di Twilight, della saga? Forse l'attore. No, non Jacob, Robert Pattinson. Ah, beh, un po' la storia, la trama, così. Hai letto anche i libri? Sì, sì, certo. Però sono più belli i libri del film. Io non sono una fan accanita, però mi è piaciuto molto le scene e... c'è gli effetti speciali. A me Licantropi, e beh, è stato bello. Anche a me Licantropi, vampiri di meno, però è stato bello. Ci hanno costretto due amiche a vederlo. Però non vi è dispiaciuto? No, dai, è bello. Sì, carino. Insomma, io ho letto il libro e mi è piaciuto molto più il libro, quindi non so. È stato bellissimo. Anche perché noi abbiamo letto tutti i libri, quindi eravamo il doppio emozionate. Anche perché queste storie di solito piacciono molto, insomma, a tutte le età. Però a questa età ancora meglio. Tutte della stessa opinione, come mai siete venute subito a vedere? È perché abbiamo letto tutti i libri e eravamo emozionate, non potevamo perdercelo. Facciamo il conto alla rovescia da quanto mancavano 200 giorni, quindi era una cosa... E adesso fate il conto alla rovescia per il prossimo. Certo, esce a giugno, siamo già pronti. Una vera e propria mania, insomma, quella di New Moon, e adesso aspettiamo ovviamente i dati al botteghino di questo fine settimana, è facilissimo prevederlo, super primo in classifica. Andiamo alla seconda finestra sul DVD Game, pronti ad ascoltare la nuova traccia misteriosa. Sai cos'è un piumino? Una trapunta. Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore. La Rosa Purpurea, @radio24.it, questo è il film misterioso di questa settimana. Più tardi avrete un'altra possibilità per giocare con noi e provare a indovinare questo titolo, questo film, per riceverlo, il più veloce e bravo della domenica e del sabato a casa vostra. Noi adesso andiamo avanti con un'altra proposta cinematografica, perché arriva nelle nostre sale un documentario che tra l'altro è entrato, è notizia proprio degli ultimi giorni, nella cerchia più ristretta di film che potrebbero ricevere l'Oscar per il miglior documentario dell'anno. Stiamo parlando di Valentino, The Last Emperor, l'ultimo imperatore, l'imperatore della moda, certo, ma un nome e un marchio che porta l'Italia in tutto il mondo. Ha visto per noi il film la nostra Micaela Bellisario. What do women want? Yeah, I know what women want. And what do they want? They want to be beautiful. Le donne vogliono essere bellissime, così dice Valentino in uno dei passaggi di Valentino l'ultimo imperatore. Se Giorgio Armani è il re conclamato della moda, Valentino sì, è decisamente l'ultimo imperatore, o meglio The Last Emperor per dirla con il titolo originale. Il film finalmente nelle sale italiane è davvero uno degli omaggi più commoventi e allo stesso tempo divertenti mai tributati dal mondo del cinema al fashion system. Dimenticate ogni riferimento al Diavolo Veste Prada o al famosissimo Prêt-à-porter di Robert Altman. La pellicola è soprattutto il ritratto umano e professionale degli ultimi anni, prima dell'addio, cioè alle passerelle nel 2007, di uno degli stilisti più amati dalle dive americane. Per tutti i 96 minuti del film, Valentino si mostra davvero per quello che è: uno stilista accurato e puntiglioso, ma anche un uomo innamorato incredibilmente dei suoi adorati e inseparabili Carlini, i suoi cagnolini che hanno addirittura un posto d'onore nelle poltrone passeggeri del suo Panfilo e del suo aereo personale. Rottura di palle, siete tutti quanti, perché era bello così, senza mettere strisce. Il film, nel quale il couturier parla inglese, italiano e francese indistintamente, segno della sua vita glamour e cosmopolita, è però anche il ritratto sentimentale di una lunghissima amicizia, di un lunghissimo amore, quello con il socio e compagno di sempre, Giancarlo Giammetti, e i due nella pellicola si prendono in giro sul loro primo appuntamento a Roma. Sai, io sono perfettamente sicuro, vogliono solamente questo, di averti conosciuto qua. Perché quando tu sei rimasto qui, io l'ho accompagnato a casa, io sono andato a prendere la macchina laggiù, ho fatto il giro completo e sono venuto qua davanti a riprenderti. La seconda cosa di cui sono sicuro è che mio padre aveva un conto aperto qua e io venivo sempre qua perché non avevo una lira. Mi dispiace tutte queste belle chiacchiere, ma era da Donnelly. Okay. Commoventi le scene del backstage e della sua ultima sfilata, da fazzoletto anche la scena vera in cui Valentino, ricevendo la Legion d'Onore in Francia, ringrazia il suo compagno Giancarlo Giammetti. E ma gratitude mon amitié, con tu particulièrement a monsieur Giancarlo Giammetti. Insomma, un ritratto davvero intimo dell'ultimo imperatore della moda che giudica il film così. Un film che avevo visto qualche roche prima a New York. Quindi delle determinate cose non mi piacevano, c'erano delle cose scoperte del mio carattere che forse avrei anche evitato di farlo vedere, e quindi non ero molto confortevole, devo dire. Valentino The Last Emperor potrebbe ora correre verso l'Oscar. L'uomo che ha inventato il red carpet dress potrebbe essere lui stesso adesso il protagonista alla notte degli Oscar il prossimo 7 marzo. È proprio guardando le grandi dive hollywoodiane che Valentino si innamorò della moda, come racconta in questa intervista riportata nel film. And I was dreaming about movie star, dreaming about everything beautiful in the world. E siamo di nuovo insieme qui alla Rosa Purpurea nella nostra zona un video, diciamo così, o comunque cinema in casa, perché nei nostri minuti di recupero adesso cominciamo subito a farci consigliare qualcosa per le visioni della prossima settimana dagli amici di Film TV. Salutiamo Andrea Fornasiero per darci un paio di consigli appunto su film da vedere o da recuperare nella settimana dei palinsesti televisivi. Ciao Franco, questa settimana iniziamo a segnalare prima di tutto lunedì su Rete4 nel pomeriggio alle 16:25 La gatta sul tetto che scotta di Richard Brooks del 1959, da una omonima pièce di Tennessee Williams con Paul Newman ed Elizabeth Taylor, un film che non passa mai di moda. Però la segnalazione più interessante ci sembra alle 21:10 venerdì su Rete4 in prima visione Flags of Our Fathers, Le bandiere dei nostri padri di Clint Eastwood del 2006, un film che alla sua uscita non fu accolto dagli entusiasmi che accompagnano di recente le uscite di Eastwood, ma che venne rivalutato quando venne distribuita la seconda parte del dittico su Iwo Jima. Il film è scritto da Paul Haggis, lo stesso sceneggiatore che ha accompagnato Eastwood in Million Dollar Baby, ed è fotografato soprattutto da Tom Stern, un artista meraviglioso che anche lui ha accompagnato Eastwood in alcuni degli ultimi film e che dà in particolare a questo dittico su Iwo Jima un tono davvero unitario. Gli spettatori potrebbero riconoscere tra gli attori non molto famosi in realtà più che altro Barry Pepper, che rappresenta il 25esimo ora Salvati il soldato Ryan e Le tre sepolture di Melchiades Estrada di Tommy Lee Jones. E grazie allora ad Andrea Fornasiero di Film TV per i consigli della settimana, La gatta sul tetto di Scotta e Flags of Our Fathers. Noi andiamo alla terza e conclusiva traccia misteriosa del DVD Game di oggi. Andare a guardare Marla Singer che barcolla qua e là nella sua topaia. Ma questo non è un vero e proprio suicidio. Probabilmente è una cosa tipo un grido d'aiuto. Si poteva andare avanti per ore. Perciò resti a casa allora. Vuoi aspettare e sentirmi descrivere la morte? Se avete indovinato di che film si tratta, la Rosa Purpurea a @radio24.it, come sempre indicate anche il vostro indirizzo, perché appunto il più bravo e il più veloce del sabato e della domenica dovrebbe ricevere direttamente a casa, poi anzi riceverà direttamente a casa, il DVD di questo film. Noi andiamo indietro di 7 giorni e come sempre andiamo a risentire una delle clip che avevamo seminato la settimana scorsa. Ma che roba è? Ma perché non suona l'ottavino? Oppure qualcos'altro, la fisarmonica come papà? E tu, invece del tassì, perché non guidi una biga romana? Eh? È il progresso? Mio figlio è proiettato nel futuro e papà suonava la fisarmonica da schifo. E questo era il DVD Game della scorsa settimana, non facilissimo devo dire, anche se il film è estremamente popolare, infatti non molti di voi hanno indovinato. E allora bravi ancora di più a Enzo Manini di Villa di Serio, provincia di Bergamo, e a Roberto Damiani di Ponte San Nicolò in provincia di Padova, perché hanno indovinato appunto che si trattava di Saranno Famosi, il film di una trentina ormai d'anni fa, che è stato adesso oggetto di un remake, ma questo insomma era l'originale, tra l'altro in Blu-ray, che noi abbiamo voluto mettere in palio nel nostro DVD Game e che andiamo a recensire adesso con il nostro Claudio Pofi, che è in collegamento con noi, che saluto. Ciao Claudio, cosa possiamo raccontare di questo Saranno Famosi? Ciao Franco, sì, possiamo dire sicuramente buone cose. Finalmente il film di Parker dell'80 arriva in alta definizione, la qualità delle immagini è sicuramente elevata, c'è qualche momento in cui la grana si fa sentire, però insomma queste sono state anche le scelte della cinematografia originale, e sicuramente impossibile una visione a questo livello su DVD, la traccia in italiano monofonica, comunque ascoltabile, il salto di qualità c'è con l'inglese ad alta risoluzione. Come extra segnalo la possibilità di visionare il film intercalando interventi di cast e regista, è presente comunque il commento del regista separato e un making of dell'opera. Ricordo che all'edizione è incluso il CD con la colonna sonora. E questa è una gran bella cosa, perché insomma ci si può ascoltare le canzoni di Saranno Famosi, che sono veramente degli evergreen. Noi cambiamo film, andiamo a raccontarne un altro di quelli che arrivano in videoteca, ed è un capolavoro di uno dei più grandi maestri di tutti i tempi dell'animazione, il giapponese Hayao Miyazaki. Stiamo parlando di Ponyo, ascoltiamo. Io non sono Brunilde, sono Ponyo. Ponyo? A Ponyo piace Sasuke. Ponyo vuole diventare un essere umano. Un essere umano? E che ci trovi di buono in quelle creature così stolte e abominevoli? Gli umani non fanno che depredare la vita dal mare. Anch'io un tempo fui un essere umano. Se sapeste per cessare di essere umano, cosa ho dovuto fare? Ponyo vuole le mani! Ispirandosi alla Sirenetta di Disney, il maestro dell'anime giapponese Miyazaki mette insieme un nuovo film poetico affascinante che racconta di Sasuke, questo bambino che un giorno scova tra le rocce una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo. Tra i due nasceranno sentimenti che condurranno Ponyo a desiderare di diventare umana. Il film dimostra sicuramente quanto la diversità può essere annullata dalla forza del cuore, e allora l'edizione di Lucky Red giunge in edizione singolo oppure doppio DVD di eccellente qualità video. Nella versione a 2 dischi DVD segnalo sul secondo la possibilità di visionare il film attraverso i bozzetti preparati per lo storyboard. Ricordo che a fine gennaio 2010 sarà il primo film Ponyo sulla scogliera di Studio Ghibli a essere pubblicato in Blu-ray alta definizione. Questo è un film che ha fatto parlare anche gli ammiratori di Miyazaki del fatto che si trattasse di un film estremamente semplice nel tratto per un maestro che ci ha regalato autentici dipinti animati come La Montagna Incantata, però è un film che ha letture diverse, quindi va benissimo per bambini anche molto piccoli, ma poi ha le sue metafore poetiche sulla vita che sicuramente si rivolgono anche a un pubblico più adulto. Abbiamo parlato a lungo di vampiri in questa puntata, dei vampiri di Twilight, ma proprio di questi tempi, lo scorso anno a Torino un film ci regalava una visione diversa, ugualmente poetica, ugualmente innamorata, potremmo dire, di questa storia, di questa impossibilità di rapporto fra un bambino normale, fra virgolette, e una vampira, in questo caso, un film però tutto europeo, con una grossa forza, si intitolava Lasciami Entrare, ascoltiamo la clip. Che stai facendo? Niente. E tu che fai? Niente. Abiti qui? Sì, abito qui, nei cubi per arrampicarsi. Dai, sul serio, dove abiti? Accanto a te. E come fai a sapere dove abito? Te lo dico subito, non posso essere tua amica. E perché, scusa? Che vuoi dire? Deve esserci un motivo. È così e basta. E chi ti dice che io voglio essere tuo amico? E siamo alla periferia di Stoccolma, in pieno inverno, sofferente per il bullismo di cui è vittima a scuola. Oscar è un dodicenne sicuramente sensibile e ansioso che incontra questa coetanea da poco trasferitasi nel suo palazzo, mentre i due coltivano un'amicizia che sfocerà in sentimenti profondi. Nella zona vengono rinvenuti cadaveri dissanguati e Oscar si renderà ben presto conto di avere a che fare con un vampiro. Coinvolgente contemporanea storia d'amore e di creature della notte, già editata in DVD, arriva grazie a Cecchi Gori per Seo Video, quest'opera in Blu-ray con grande qualità audio-video. Come extra sono presenti le scene tagliate e un trailer. Grazie Claudio per averci raccontato le novità in un video di questa settimana. Appuntamento fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea. A presto, un saluto. E noi andiamo a chiudere la puntata della Rosa Purpurea di questa settimana. Abbiamo parlato di alcuni dei film, anzi di quasi tutti i film che sono arrivati in sala, ma soprattutto ne abbiamo parlato con un grande maestro come Francis Ford Coppola, il cui incontro ovviamente ci rimarrà ben impresso. L'appuntamento va sabato prossimo alle 18, domenica alle 9 del mattino per chi ci ascolta in replica qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.